uno dei compiti principali della pubblicità è quello di fornire una rappresentazione di un determinato prodotto che lo caratterizzi, distinguendolo il più possibile dai prodotti simili. Non è certo un compito facile, ma vi sono casi in cui trovare un motivo di distinzione al di là del nome commerciale è addirittura arduo. Un caso tipico di queste difficoltà riguarda i pannolini per bambini. Passati i tempi dell'evoluzione tecnologica e morfologica, da rettangolare più mutandina in plastica ad anatomico cui sono stati aggiunti gli elastici, ai modelli differenziati per sesso con la chiusura in adesivo removibile e più alti in vita, si è arrivati ora ad identificare il prodotto migliore con il valore tutto metafisico del più asciutto, che anima gli spot delle due grandi industrie del settore. Se l'argomento è unico, i metodi per raggiungerlo sono però diversi. Da una parte, la Pampers, in una prospettiva tutta chiaramente empirica, c'è una signora che attraverso una circunlocuzione si presenta come un'esperta dell'argomento. È seria, posata, anche se lievi indecisioni nel parlare tradiscono un po' di imbarazzo. Certo, è del tutto normale che una persona non avvezza la macchina da presa. E poi, trattandosi di contenitori per escrementi, sia pure di neonati, definirsi esperta non deve essere stato facilissimo. L'esperta parla comunque. Sul video si alternano immagini di bambini felici e di un pannolino che assorbe acqua azzurra su cui viene messo poi un orsacchiotto di peluche. Ma è solo un attimo, e mentre la voce non ha spiegato nulla di quest'ultima strana prova, si torna ai bimbi felici con i sederini rosa. Tutto sommato la costruzione è solida, perché l'esperienza da Leonardo da Vinci in poi ha un posto consolidato nella scala dei valori correnti, e il neogenitore che accetta la signora come esperta può senz'altro indirizzarsi verso quel prodotto. Dall'altra parte, la Lines, il discorso è più articolato ed accampa anche qualche pretesa scientifica. Si comincia con l'affermare una precisa conoscenza di tutti i sistemi idraulici del corpo infantile che hanno portato alla fabbricazione di un pannolino capace di assorbire anche i picchi della produzione giornaliera di pipì. Bevi, bevi, tanto c'è l'Ines. Si prosegue poi con la dimostrazione che l'asciutto è più asciutto, con lo schema di un esperimento di laboratorio. Prendiamo un gessetto sensibilissimo al bagnato, versiamo tanta acqua qui sul pannolino e poche gocce qui sul tavolo. Vedete, il gessetto che si bagna sul tavolo, sul pannolino non rileva traccia di umido. Fine della dimostrazione. Ora, anche tralasciando il fatto che durante la prova lo stesso elemento che sul tavolo era un gessetto sul pannolino è diventato un rilevatore di umidità, mi pare che la prova dimostri pienamente che il pannolino assorbe molto più del tavolo, e se anche non ho mai avvertito la necessità di una simile dimostrazione, sono comunque grato a quella ditta per aver ampliato il mio bagaglio culturale e quello dei telespettatori. La cosa che però non riesco a sopportare è il giudizio implicito sulle facoltà intellettive dei neogenitori, che dovrebbero rifiutare l'acqua ai figli in mancanza di un pannolino adatto, o accettare la testimonianza di una maestra d'asilo come un'offerta spontanea per la causa dei sederini rosa. In fondo, per comprare dei pannolini non è indispensabile essere superficiali o sciocchi, e tuttavia, a giudicare dagli spazi che gli vengono destinati nei supermercati, è proprio il più offensivo quello dei due spot che realizza il maggior successo di vendite per i suoi prodotti. Forse perché il prodotto ha una qualità decisamente superiore, o forse perché il neogenitore italiano medio trova il suo appagamento nell'essere trattato in quel modo.